reportage. Gender pay gap. Tra donne e uomini in Europa è ancora divario. Di Alessandra Schepisi. You can get it if you really want. You can get it if you really want. Noi siamo la classe operaia, gli uomini e anche le donne. Noi non siamo divisi dal sesso, ma divisi solo tra quelli disposti ad accettare le ingiustizie e quelli che sono pronti ad andare in battaglia per ciò che è giusto. Era il 1968 quando le operaie della Ford di Dagenham nella contea di Essex a est di Londra diedero vita a una piccola grande rivoluzione. Le 187 donne costrette a lavorare in condizioni precarie scioperarono per ottenere lo stesso trattamento salariale dei loro 55.000 colleghi uomini. Una protesta che allora riuscì ad attirare l'attenzione dei sindacati e della comunità, trovando infine l'appoggio del ministro del lavoro Barbara Castle, pronta a lottare insieme a loro contro una legge iniqua e a far approvare l'Equal Pay Act. La loro storia è raccontata nel film del 2010 We Want Sex. Da allora tanti anni sono passati, tante leggi sono state approvate per sancire parità di trattamento tra uomini e donne, ma il divario salariale di genere, il cosiddetto pay gender gap, è ancora una realtà. Ci sono sulla carta le stesse opportunità, ma aspettative di carriera e alla fine retribuzioni diverse. In Europa le donne guadagnano fino al 30% in meno degli uomini, il 16,4% in meno all'ora. Il dato è in lieve miglioramento rispetto all'anno passato, ma per il calo delle retribuzioni maschili a causa della crisi. È per questo che la Commissione europea ha istituito la giornata per la parità retributiva, celebrata anche quest'anno nell'ultimo giorno di febbraio, perché è come se le donne lavorassero gratis per i primi 59 giorni dell'anno. Un concetto, quello del divario salariale, ribadito anche dal Papa. Sostenere con decisione il diritto all'uguale retribuzione per uguale lavoro. Perché le donne si dia per scontato che devono guadagnare di meno degli uomini? No, lo stesso diritto. In Europa lo scarto maggiore è in Estonia, Austria e Germania, il minore in Slovenia, Polonia e sorprendentemente in Italia, dove il divario si è ridotto al 6%, posizionando il nostro paese tra quelli più virtuosi. Ma è davvero così? Si nasconde qualcosa dietro a questo numero apparentemente non negativo o siamo davvero più avanti rispetto ad altri paesi europei? Lo abbiamo chiesto a Filippo Abramo del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana Direttori del Personale. La situazione è abbastanza contraddittoria, per la verità, nel senso che a favore di una minore diseguaglianza, diciamo, sta il fatto che in Italia, sia a livello di impieghi pubblici che di impieghi privati, c'è una forte presenza dei contratti nazionali di lavoro che ovviamente non prevedono alcuna differenza. E quindi da un punto di vista formale, effettivamente l'Italia sul piano salariale sembrerebbe avere una differenza inferiore ad altri paesi. Però purtroppo, qui poi si tratta anche per correttezza di riportare tutti i dati, a una recente indagine del World Economic Forum, quello lì che si tiene a Davos, e purtroppo invece l'Italia risulterebbe fra le ultime in Europa, il che francamente contraddice l'altro dato che lei citava. Diciamo che se noi stiamo ai documenti ufficiali e se noi andiamo a guardare, come dire, il ceiling glass, come dicono loro, cioè il soffitto di vetro, non c'è dubbio che una giovane laureata tende a essere pagata di meno di un giovane laureato. E poi questa differenza retributiva, se la trascina nel tempo, e tant'è che poi alla fine nelle posizioni manageriali arrivano, forse le donne arrivano a un 8-10%, mentre in altri paesi, in particolare la Svezia, cioè i paesi del nord Europa in generale, ovviamente hanno livelli molto molto maggiori di copertura di posizioni apicali, insomma. Ecco perché c'è questa differenza fra le regole e la realtà. Se noi andiamo a guardare la legge italiana, che credo sia la 120, che stabilisce che nei board, nei consigli di amministrazione ci devono essere tendenzialmente il 40% di donne, uno dice: oh, guarda l'Italia com'è avanzata perché c'ha il 40% di donne. Poi in realtà questa è una dichiarazione di intenti, perché le donne presenti nei consigli di amministrazione non giungono, non arrivano al 10%. Insomma, come sempre occorre leggere al di là del dato per scoprire che il potere e la carriera in Italia fanno ancora molta fatica a tingersi di rosa. Poche le donne alle guide di aziende, così come di istituzioni pubbliche, tante ancora invece le difficoltà che il gentil sesso deve affrontare per ottenere avanzamenti di carriera. E se dunque è vero che in virtù dei contratti collettivi a parità di posizione lavorativa in Italia uomini e donne sono pagati più o meno uguali, è altrettanto vero che le donne continuano ad occupare il gradino più basso e dunque ad essere retribuite in generale meno, perché aumenti di merito e scatti di carriera riguardano ancora soprattutto gli uomini. Ce lo conferma Cristina Molinari, presidente del comitato Pari o Dispari, che si occupa del raggiungimento della parità tra uomini e donne attraverso il lavoro. Direi che nella mia esperienza le differenze salariali vanno capite e vanno capite su due fronti diversi. Il primo è quello professionale, cioè le donne che hanno una professione. Queste competono con i colleghi maschi e devono vincere una ritrosia, diciamo, a scegliere una professionista femmina. Quindi mediamente hanno dei rate più bassi, no? E competono quindi sul prezzo. Salvo rare eccezioni, che sono quelle che si sono straaffermate, quindi le loro parcelle sono più basse. La seconda invece filone è quello aziendale, no? Allora, se lei vede le aziende che hanno investito nella tematica dell'equiparazione, quindi che si sono poste il problema di come bilanciare la presenza di uomini e donne in tutti i livelli di carriera, e quelle che lo fanno seriamente sono ancora abbastanza una minoranza, no? Allora, la prima cosa che fanno è raccolgono i dati, però i numeri vanno anche capiti. Le faccio un esempio. La differenza salariale, lungo, se la studia nella piramide aziendale, quindi da primi livelli fino a livelli manageriali, lei può trovare dei dati sorprendenti. Per esempio, nei livelli intermedi lei scoprirà che spesso le donne sono pagate di più dei maschi. E, come mai? No? E perché? Perché stanno nel ruolo di più, perché non vengono promosse. Quindi bisogna stare molto attenti per leggerli correttamente, nel senso che se io ho dei quadri o dei livelli appena sotto la dirigenza, è facile che ci sia un buon numero di donne che vengono pagate più dei maschi, semplicemente perché non sono entrate nelle promozioni. Ma infatti parliamo di cioè della media di tutti gli stipendi, no? Sì, sa, le medie, io per esempio sarei un po'... le medie non aiutano spesso a capire i fenomeni, no? Perché per esempio, no, se lei ha un oceano di donne di primo livello, come capita spesso, no, per esempio nella ristorazione, piuttosto che, mi faccia dire, in alcuni segmenti di produzione specifica, diciamo, l'abbigliamento o quant'altro, lei di differenze salariali probabilmente ne trova abbastanza poche, perché sono comunque, diciamo, calmierate da delle griglie sindacali o quant'altro. Lei trova la divaricazione nelle retribuzioni più facilmente al salire della carriera, e questo è generato da due fattori che si confondono a vicenda. La prima è la maggiore difficoltà che hanno le donne ad acquisire delle promozioni, no? E quindi a conquistare dei livelli professionali da un lato e salariali, quindi, no, superiori. L'altra è invece il fatto che talvolta invece risulta che vengono pagate di più a parità di livello, perché ci stanno 10 anni invece che 5. Comunque rimane sempre il fatto che ai posti di comando ci sono meno donne rispetto agli uomini. Sì, è molto difficile che ci siano delle richieste neutre. Molto spesso, quando viene proposto un curriculum femminile, dall'altra parte c'è una certa diffidenza. Quindi è vero, no? Cioè, non solo le carriere interne all'azienda sono più ripide per una donna, ma anche, diciamo, nelle transizioni da un'azienda all'altra, non è facilissimo che le donne vengano scelte. A ticking bomb means trouble for Batman and Robin. Holy, breaking and entering! It's Batgirl! Quick, Batgirl, untie us before it's too late. It's already too late. I've worked for you a long time and I'm paid less than Robin. È lo spot del Dipartimento del Lavoro americano per far conoscere la legge sull'equal pay. Nel video Batman e Robin sono legati a un palo accanto ad una bomba d'orologeria che ticchetta senza pietà. Batgirl, liberaci prima che sia troppo tardi, le intima Batman, ma lei rivendica: è già troppo tardi, io sono con te da molto tempo e sono pagata meno di Robin. Batman rimane a bocca aperta. E lo spot è del 1960, da allora è passato quasi mezzo secolo e il divario salariale nei paesi industrializzati, ma soprattutto in Europa, è ancora una realtà. Euro Reportage. In collaborazione con Euronet Plus.